Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Buongiorno, benvenuti, accomodatevi, la porta è aperta. Entriamo in questa casa che non è un albergo, come sempre, per parlare dei nostri figli. E meno male che non sono sola, perché si fa una bella fatica. Alberto, ciao, benvenuto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Metti la tua fatica sopra le mie spalle, dentro il mio zaino, perché farò il papà di turno oggi. 824 0024 se volete accomodarvi e parlare con noi delle vostre fatiche, dei vostri dubbi nell'educazione dei figli, nella convivenza con questi ragazzi che crescono a vista d'occhio. Oggi un tema che ci coinvolge tutti: mamme e papà di ragazzi adolescenti e mamme e papà di bambini piccoli. Infatti guarda, io oggi uscendo di casa ho detto ai miei figli: oggi ascoltate la trasmissione perché papà parlerà insieme a tutti i papà e le mamme d'Italia, dalla Val d'Aosta alla Sicilia, di castighi, punizioni. Io mi sono segnato, mi sono preso un foglio, un foglio di carta, una penna, e ho detto a loro che segnerò tante nuove idee di castighi e punizioni. E Jacopo, il mio primogenito, era terrorizzato. Ho detto: ma papà, poi ce li fai provare tutti? Però tu di che partito sei? Di quelli che cercano sempre, no, di discutere e farli ragionare e poi va bene, si guarda, volta ti pagina, rispondo in riga, ti rispondo in rima. C'è il momento dello spiegone e c'è il momento della punizione. Mamma mia, allora abbiamo Giacomo Spunto in regia, la parte tecnica. Sei un po' spaventato anche lui, ma vedo che sorride perché intanto ci divide il vetro. Abbiamo Gigi Borghi come sempre in assistenza in redazione. Direi di andare a sentire la lettera che ci ha mandato il papà. Mia figlia, Cecilia, di 14 anni, prima superiore, buona pagella, ha sottratto dal portafoglio di sua madre una banconota da 50 euro per comperarsi in un negozio del centro trucchi e rossetto da mettere quando esce con le amiche e noi non la vediamo. Noi non sapevamo nulla di questi acquisti, ma mia moglie, che è molto attenta a ciò che c'è nel portafogli, per una settimana è andata alla ricerca di questi soldi chiedendo a tutti quelli che vivono nella nostra casa, ci sono altri due fratelli, se qualcuno avesse preso questi soldi. È arrivata a mettere in dubbio l'onestà di una collega di ufficio e la buona fede della signora che da 10 anni ci aiuta in casa con le faccende domestiche. Finché un pomeriggio la signora che aiuta in casa, facendo le pulizie, ha trovato tra il materasso e la rete del letto una borsa di una profumeria con dentro trucchi e scontrino da 46 euro. Mistero svelato. Mia figlia, quando alla sera l'abbiamo smascherata, in lacrime ha promesso di non farlo mai più. Noi siamo rimasti colpiti dall'insistenza con cui per giorni ha negato di essere stata responsabile di questa cosa. La mia reazione è stata molto dura. Niente uscite del sabato per un mese, niente paghetta per 2 settimane, così va alla pari col debito. Ho esagerato? Mia moglie dice che ho mortificato troppo Cecilia con i castighi e che lei avrebbe avuto la mano più leggera. Come si capisce se una punizione di un genitore è troppo dura rispetto a ciò che ha fatto un figlio? Dovevo essere più morbido? Alberto, tu cosa avresti fatto? Ma qua c'è un papà che fa il papà. Secondo me qua il problema è che la trasgressione originale è diventata molto più faticosa poi da gestire, perché è stata seguita da questa negazione ad oltranza. Quindi c'erano ben due diverse cose da punire. In questo caso è una punizione che probabilmente lascia il segno e eviterà il ripetersi della cosa a venire. È molto importante che mamma e papà siano d'accordo però sulle punizioni ai figli, perché bisogna in qualche modo fare sì che i figli vedano due genitori che seguono una linea. Mentre in questo caso i genitori non erano d'accordo. Erano un po' in disaccordo. Allora io vorrei subito mettere al lavoro la nostra ospite di oggi, la dottoressa Manuela Trinci, che è tornata a trovarci. Buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie. Psicoterapeuta dell'età evolutiva, parliamo non di soldi rubati, ma di castighi e di punizioni. Dottoressa Trinci, il papà ha preso una posizione e ha dato un castigo. La mamma diceva: ma potevi essere un pochino più morbido. Alberto sottolinea che le punizioni e i castighi devono essere condivisi da entrambi i genitori. Lei cosa ne pensa? No, dunque, penso che sostanzialmente sono d'accordo con il dottor Pellai, mi sembra evidente che se due genitori riescono a mantenere una posizione, hanno davvero la stessa posizione rispetto a una punizione, questa è un po' un'epifania, perché molto spesso nella vita quotidiana non succede. Quindi è ovvio che la mamma qualche volta può essere più morbida, qualche volta il padre può essere più morbido. Mi sembra che nel caso che voi avete descritto il padre si assuma le responsabilità della cosa e la mamma poi tutto sommato esprime un disaccordo, ma per come si capisce lo esprime più a livello di coppia, cioè nel parlarne con il padre, che non poi di fatto nel prendere una posizione precisa con la figlia, no? Quindi dei modi diversi di vedere le cose ci sono, e questo fa parte anche della dialettica interna di ogni relazione, non mi sembra normale. L'importante è cercare di fronte a un figlio, secondo me, di essere molto coppia, cioè molto genitori. Ecco, questo io credo che sia quello che poi arriva davvero ai ragazzi, anche con delle sfumature diverse, però c'è una preoccupazione, c'è una punizione che viene data soprattutto per il, fra virgolette metterei, il bene del figlio, perché certe volte proprio è la capacità che i genitori hanno, in maniera più morbida qualcuno, in maniera più decisa e più intransigente altri, la capacità che i genitori hanno di mettere un fermo ai figli, ecco, e questo è il grande vantaggio di genitori che sono autorevoli e che posseggono il dono di dare la norma. Uno dei problemi che ha questo papà a questo punto è: sono stato troppo severo, dovevo essere più morbido, cioè qual è il limite tra quando è troppo e quando è troppo poco? Io provo a dare la mia risposta. Va bene. Quando è troppo poco il figlio non si lamenta, il che significa che percepisce proprio quella punizione come troppo debole, e quando invece è in qualche modo proporzionata o eventualmente in eccesso, un figlio si lamenta perché la vive proprio come coscrittiva. A questo punto fa il suo mestiere, dovrà entrare in negoziazione con un genitore che l'ha punito. Lei cosa ne pensa, dottoressa? Guardi, io sono perfettamente d'accordo, nel senso che i genitori di oggi hanno, intanto credo che ci sia una cosa umana, molto umana, di chiedersi quale sia la misura giusta della punizione, ma i genitori si chiedono questo anche per qual è la misura giusta del regalo, no? È un po' difficile, credo, trovare la propria misura. Ma in questo caso, come in tanti altri casi, cioè, mi sembra che proprio le famiglie contemporanee abbiano paura, quasi, difficoltà, quindi paura ad affrontare i normali conflitti generazionali. Cioè, il babbo e la mamma frequentemente nelle famiglie si litigano il ruolo di chi è diventato troppo buono, più buono, cioè come se nessuno volesse assumersi l'ingrato, ahimè, compito di dare uno scappellotto, anche semplicemente simbolico, ecco. Quindi probabilmente questo bisogno di trovare la misura, questo confronto tra i genitori, spesso ha a che fare con quelle che i sociologi chiamano appunto l'opacità delle nuove famiglie, cioè queste famiglie dove siamo più dialoganti, sempre più simmetrici, e stabilire una dissimmetria fra padre e figli può sembrare un bieco ritorno all'autoritarismo. Io su questo proprio aprirei un dibattito: è autoritarismo oppure è davvero una maniera per dare un contenitore ai figli? C'è poi un altro aspetto che vorrei considerare: quando di comune accordo si decide la punizione da dare a un figlio, poi bisogna mantenerla. Togliere dal castigo talvolta sembra quasi una retrocessione, un ripensamento, e questo non so se, Alberto, dal punto di vista educativo può essere un bene o un male. Questa casa non è un albergo. Siamo tornati insieme, è venuto a trovarci Marco che ci chiama da Milano, 800 24 0024. Benvenuto Marco, si accomodi. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Ho ascoltato quel fatto del furto. Ecco, io ho avuto un caso analogo con la figlia, solo che ci siamo accorti solo quando poi abbiamo trovato nelle sue cassetti oggetti vari, pennarelli, collanine. Era andata a fare shopping diversi mesi. Io ovviamente mi rendevo conto che mi mancavano dei soldi, ma siccome non riuscivo a fare un controllo, quando poi abbiamo così chiesto la fonte di questi prodotti, ha cominciato a raccontarci che erano degli omaggi delle sue compagne, dei regali, insomma la cosa sembrava un po' strana. Solo prima di Natale praticamente di fronte all'evidenza ha dovuto non riconoscere, no, ma sì, ma è vero, e poi ha messo in mezzo tutte le sue compagne, praticamente le ha rese colpevoli, no? Nel senso ha dichiarato che tutto quello che aveva in casa erano dei regali. E solo quando noi abbiamo chiamato i genitori delle sue compagne praticamente è venuto fuori il problema. Quanti anni ha sua figlia Marco? 12. E lei, allora, sì, Marco, che cosa avete deciso di fare? Allora, praticamente nessun regalo a Natale, e poi stretto controllo del, come si dice, non c'è più la televisione, tutte cose che insomma a cui lei ci teneva molto, ecco. E riuscite a mantenere da prima di Natale quindi queste punizioni? Non avete certo, mai sì, sì. No, no, beh, su quello prima siamo d'accordo, sì. Anzi, diciamo che io ho dovuto calmare mia moglie perché stava anche così rendendo pesante la situazione. Poi ha tagliato i capelli mia moglie perché così impari, perché è chiaro che avevamo dovuto agire su quelle cose su cui lei ci teneva molto, no? Adesso la questione è perché avevo chiamato. Allora noi abbiamo dato queste punizioni esemplari, per cui siccome è mente, no? È abilissima a mentire. Sì. Questo è il nostro problema e il nostro timore. Sì, certo. Perché abbiamo paura che un domani vi nasconda delle cose molto più serie, che ci nasconda dei fatti più gravi, ecco, quindi. Allora, dottoressa Trinci, mi sembra che qui ci sia da lavorare, mettetevi al lavoro con Alberto. Allora, è una ragazza molto abile a mentire, una ragazzina, 12 anni, che ha tirato in ballo famiglie, genitori, per cui i genitori hanno dovuto telefonare a casa dei compagni. Insomma, la cosa si è ingrandita parecchio, però il castigo è fermo, mi sembra ben determinati, non tornano indietro, ma la ragazza recidiva. Dottoressa Trinci. Dunque, intanto colpisce un pochino l'età, 12 anni, no? Quindi è proprio una ragazzina, una between, come si chiamano oggi modernamente, né più bambina né ancora proprio adolescente. Quindi io direi giusto mantenere la punizione per dare un input un po' ai nostri ascoltatori, secondo me, giusto mantenere la punizione e che le punizioni che i genitori diano, quindi sono delle punizioni sostenibili anche da genitori, perché poi a un certo punto si lasciano un po' trascinare, non ce la faccio a non dargli la PlayStation per 2 settimane, come si fa? Ecco, allora, che siano punizioni che un genitore sente dentro di sé, che può dare, che può sentire. Nel caso però della ragazzina, noi bisogna tener conto che certe volte ci sono furti e furti, ci sono bugie e bugie, non sempre è tutto uguale. Ora, questa ragazzina che prende cose, io mi domando, ecco, come una che fa questo lavoro ormai da tanti anni, se davvero attraverso il prendere tante cose non ci sia un po' una richiesta anche di guardatemi, da una parte, oppure potrebbe essere ancora un essersi sentita lei derubata da qualche cosa, così come la menzogna può essere davvero un qualche cosa di manipolante, ma può anche essere un tentativo dei ragazzini di crearsi uno spazio solo per sé, possono essere dei modelli adulti che arrivano ai ragazzini, quindi credo che il genitore abbia, prima anche di punire, mantenendo poi le sue posizioni educative, quelle della famiglia, che ci sia anche un atto di comprensione verso quello che succede, perché mi sembra molto diverso la ragazzina che ruba, che porta via, che è un episodio così un po' di minimissima delinquenza, e la ragazzina che lo fa sistematicamente, che lo continua a fare al di là delle punizioni. Allora forse nella mia mente arriva un po' tipo Paperoga, un grande punto interrogativo, ecco, perché. Certo, Alberto. E secondo me c'è l'altro problema: di fronte a trasgressioni che hanno poi mosso i genitori su punizioni così forti e così anche durature nel tempo, c'è poi il problema del recuperare la relazione di fiducia con un figlio, cioè nel momento in cui tu hai trasgredito, io ti ho dato una punizione per te molto significativa, è molto importante poi non cristallizzarsi in questa sorta di posizione di potere e basta, perché altrimenti un figlio ha la percezione di essere solo quello che ha fatto e invece va proprio in qualche modo fatto muovere da lì, cioè va fatta la seconda parte, cioè dopo la punizione bisognerebbe avere anche un po' l'elaborazione rispetto a quello che è successo e recuperare i significati, proprio come diceva la dottoressa Trinci. Ecco, per dare, per concretizzare quello, il concetto che tu ma su stai questo con questa ragazzina, per esempio, io farei un salto di qualità. Adesso siamo rimasti molto colpiti dalla tipologia di trasgressione che hai messo in atto, c'è molto dispiaciuta come genitori per tutto quello che ne è derivato. Crediamo che a 12 anni forse sei diventata abbastanza grande per gestire una piccola quantità di soldi. È molto importante nella prima fase che noi e te sappiamo per che cosa li utilizzi, ma invece di rubarli dal portafoglio, questa volta adesso puntiamo sul ricostruire una relazione di fiducia, magari 5 euro alla settimana che tu ti devi amministrare. A questo punto le cose che vuoi non le devi più rubare, ma le devi in qualche modo conquistare attraverso questo nuovo modo di stare in relazione noi con te. Adriano invece ci chiama da Treviso. Buongiorno Adriano, benvenuto. Grazie, buongiorno. La mia esperienza di genitore, ho bambini ancora un po' piccoli, hanno 6 e 4 anni, quindi siamo in una fase ancora di prima educazione, ma con mia moglie abbiamo stabilito questa, chiamiamola regola, chi dei due dà la punizione, tante volte viene data anche naturalmente da soli perché o non ci sono, perché magari di impulso si dà una punizione, abbiamo detto, ci siamo dati questa regola, mai contraddire la punizione se eventualmente uno dei due lo volesse fare di fronte ai figli. Certo. Eventualmente poi in separata sede dire io avrei fatto così, io avrei fatto colà, anche perché mi sembra che in questo caso i figli potrebbero capire o intercettare una discrasia fra i genitori che potrebbe far sì che la punizione non abbia effetto, insomma, ecco, in questo caso. E volevo però, perché ho sentito l'intervento di prima della figlia così che raccontava bugie, sì. Il mio il più piccolo è molto più piccolo, ha 4 anni, quindi il caso sono diverso, però volevo capire quando eventualmente doversi preoccupare, perché mente anche nelle cose più evidenti, insomma è un po' Pinocchio, ma c'è l'età, no, in cui i bambini piccoli sono un po' pinocchietti. Alberto, sì, allora intanto lei sta già anticipando un tema di una delle prossime puntate, sarà proprio dedicata alle bugie. Consideri sempre che a 4 anni per un bambino la realtà non è mai quella che è, ma è quella che lui si costruisce un po' dentro alla sua testa, quindi proprio come diceva Nicoletta, le bugie a volte per un bambino vengono proprio naturali. Mentre, dottoressa Trinci, quando possiamo avere il sospetto che dietro alla bugia c'è una richiesta magari di attenzione del bambino, un suo bisogno, qualcosa che non riesce magari a formulare a parole e che esterna proprio raccontando le bugie? E quali bugie vanno punite? Ma per esempio, credo che in quello che ha detto Alberto Pellai ci sia, no? Cioè ci sono delle momenti della vita del bambino, un'età del bambino in cui la fantasia e la realtà sono fra loro ancora intricate, ecco, non c'è un limite. Nel momento in cui il bambino, il ragazzino, comincia a differenziare quella che è un suo mondo interno di fantasia e quella che è la realtà esterna, è evidente che lì si può cominciare a parlare di bugie, ma le bugie possono avere il naso lungo, le gambe corte, alcune devono preoccupare, come diceva giustamente lei Nicoletta, altre non devono assolutamente preoccupare, perché sono comunque espressioni di una grande fantasia, di una grande vita interiore anche del bambino, che magari non trova nella realtà e allora ci costruisce sopra un castello, sta un po' al genitore a aiutarlo di volta in volta a trovare gli aspetti reali della vita, ma senza fantasia, senza immaginazione, cioè, se Calvino non fosse stato un grande bugiardo non esisterebbero le città ideali, io credo. una difficoltà, penso che ci sia per i genitori, è con i figli adolescenti, sì. Perché gli adolescenti mettono duramente alla prova, perché hanno un corpo che parla, perché hanno un corpo che ha delle esigenze, perché hanno una mente che comincia a staccarsi dalla mente dei genitori. Con il bambino anche di 7-8 anni le mamme, i babbi comunque sanno più o meno che cosa accade nella mente del bambino, mentre davvero quando si cominciano a staccare i fili della comunione fra genitori e ragazzini e ragazzine, soprattutto fra mamme e ragazzine e ragazzini, ecco che lì c'è una grossa crisi dei genitori, perché certe volte il genitore vorrebbe proprio sapere tutto quello che succede nella mente del ragazzino. Quindi la bugia, tutte queste minime trasgressioni sono davvero degli scacchi che il genitore subisce. Questa casa non è un albergo. Eccoci, siamo tornati. Voglio leggervi due messaggi riguardo alle punizioni, che proprio sono espressione di due modi di vedere molto diversi. Il primo è: essendo troppo severi con le punizioni, non si rischia di peggiorare il rapporto di dialogo e affetto con i figli? Ci scrive Stefano da Verona. Sonia invece ci scrive: perché tanti dubbi? Una volta si puniva e basta. Poi è il giovane che si deve dar da fare per riconquistare la fiducia del genitore. Alberto? Sì, mi sembrano proprio due posizioni agli antipodi. Voi da che parte state? Facciamo un brevissimo sondaggio prima della fine della trasmissione. Punizioni sì oppure no a casa vostra? Chi le impartisce, mamma o papà? 349-238-6666. Dottoressa Trinci, a proposito, lei cosa risponderebbe a Sonia e a Stefano di Verona? Sonia è la... Sonia dice si puniva e basta, poi è il giovane che si deve dar da fare per riconquistare la fiducia. Invece Stefano si interroga, ma queste punizioni troppo severe magari non rischiano di peggiorare il rapporto di dialogo? Mi sembra, Nicoletta, che sul finire della trasmissione, quasi paradossalmente, risiamo all'inizio, no? Qual è la misura? Sì. Qual è la misura giusta per impartire le punizioni ai figli? Io penso che davvero ogni famiglia, come ha il proprio lessico, possa anche trovare il proprio modello educativo, questo è indubbio. Quello che mi sembra, che come persona che lavora con i bambini e ragazzini da tanti anni, io possa dire, è che l'adulto non deve avere paura di entrare in conflitto con il figlio, senza per questo riproporre posizioni autoritarie o anche dolorose. Pensiamo alla lettera di Kafka al padre, no? Quindi certo. Dobbiamo fare attenzione anche a questo, perché gli anni sono passati e quindi contributi della pedagogia, della psicologia, alla conoscenza dei ragazzi. Non vorrei che poi tutto questo fosse vanificato dicendo ma insomma è sempre esistito, perché ci dovremmo dare tanto da fare. È vero, però io credo che l'interesse di ogni genitore sia quello di dare ai figli serenità, di farli crescere in maniera che possano essere delle persone libere, capaci di scegliere. In questo senso la punizione può davvero essere utile, perché il lassismo indiscriminato, cioè il far finta di niente, non serve. Ecco, soprattutto io credo che un appello andrebbe lanciato nel dire ai genitori: non fate mai finta di niente, i figli dovete conoscerli e di questa conoscenza ne dobbiamo fare tesoro. Non fare mai finta di niente, mi sembra che questo sia un messaggio da tenerci in tasca, perché tante volte si lascia correre proprio per la paura di dover affrontare questo conflitto. A volte però si teme di arroccarsi in delle punizioni che alla fine possono lasciare il segno, quindi siamo sempre in bilico. Andrei al nostro consiglio di lettura e poi sentiamo Liliana da Belluno. Grazie all'iniziativa di Internet Bookshop oggi potete ricevere a casa il libro che si intitola Come parlare alle ragazze. Per ricevere questo libro a casa dovete essere il primo ascoltatore e inviare un'email a esserebenessere@radio24.it. Naturalmente nell'email dovete mettere il titolo del libro, i recapiti e il vostro numero di telefono. In collaborazione con IBS.it. Liliana, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, io chiamo da Belluno e sono la mamma di due ragazzi, uno di 17 anni e una ragazzina di 15 anni, quindi in casa mia si respira una grande aria di adolescenza. Sì. A me è successa un po' la stessa cosa che è successa ad altri ascoltatori, nel senso che giusto sabato scorso mi sono spariti dei soldini dal portafoglio, me ne sono accorta e la domenica mattina ho preso ad uno i miei figli. Sì. Il primo più grande che mi dava dei dubbi, perché i genitori i loro figli li conoscono. Certo. Sotto. E appunto gli ho chiesto se avesse preso dei soldini dal mio portafoglio. Gli avevo dato la mancetta prima di andare via, doveva andare con degli amici e farsi un giretto in treno, perché abitiamo in un piccolo paese e non c'è molto. E aveva detto andiamo fino in questo posto in treno e poi facciamo un giretto in questa cittadina. E avevo valutato un attimo quello che gli poteva servire. E quindi gli avevo dato una mancia equa, ecco. Lui in un primo momento mi ha detto no, io non ho preso assolutamente niente, ma figurati se faccio queste cose. Poi in un secondo momento gli ho fatto capire che non l'avrei punito, gli ho dato fiducia, gli ho detto guarda, io non era sparito molto, erano spariti solo 10 euro. Però adesso non è importante la quantità del denaro, ma sicuramente è importante il gesto. Certo. E io gli ho detto non ti punirò, però tu devi essere sincero con me e devi fidarti dei tuoi genitori, perché se tu hai delle esigenze, hai bisogno di qualcosa in più, ti sembra di aver bisogno di spendere qualcosa in più, parliamone. Tu lo chiedi e se è possibile noi ti accontentiamo. Sì. Certo che non ti posso dare grandi somme di denaro, perché purtroppo io sono disoccupata, mio marito ha dei problemi con il lavoro, quindi devi valutare anche tu le tue spese e come spendi i soldi. E allora in un primo momento è stato un po' titubante e poi ha ammesso la sua colpa. E allora questo mi ha dato molta soddisfazione, perché gli ho fatto capire l'importanza del denaro, secondo me. Anche secondo me, Liliana, lei ha fatto molto bene. Chiediamo ai nostri esperti. Dottoressa Trinci, Liliana mi piace. Sì, anche a me moltissimo, è una persona che si vede che ha un rapporto reale con i figli, un rapporto di carne e di mente, quindi lo conosce, lei lo ha detto e l'ha detto in maniera bella, perché un genitore lo conosce il proprio figlio, non sempre è così, ecco. Mi sembra che quindi alla luce di un lessico proprio di loro, di famiglia, di modello educativo, è riuscita a trovare il modo di far capire al ragazzino la situazione che la famiglia vive. Certo. Mi sembra è uscita che da questa situazione difficile aiutandolo a prendere anche una strada. Alberto? Ma direi due aspetti importanti della testimonianza di Liliana. Intanto, come diceva la dottoressa Trinci, non ha fatto finta di niente e lo ha dimostrato al proprio figlio. La seconda cosa è che non ha attribuito una colpa, ha fatto sì che il figlio si attribuisse la colpa, cioè gli ha dato tutti gli strumenti per sentirsi forte e contenuto nella relazione con un genitore, a quel punto poter ammettere l'errore fatto. Devo dire che però dal sondaggio che abbiamo lanciato, Alberto, i genitori sono i nostri genitori, almeno quelli che ci hanno mandato messaggi, sono per le punizioni esemplari, e addirittura Roberto da Prato specifica anche eventualmente la punizione sia all'inizio molto severa, abbiamo poi tempo nella relazione per diminuirla progressivamente, in qualche modo per ridurla o contenerla. Una punizione mi sembra quasi di intuire che faccia un po' proprio spaventare un figlio rispetto a quello che ha fatto, e poi dopo lo spavento iniziale eventualmente lo riprendiamo. Cosa ne pensa, dottoressa Trinci? Ma io penso che le situazioni siano diventate tali per cui se non ci sono delle cose forti, quindi punizioni forti, discorsi forti, eccezionali, eccetera, eccetera, sia difficile trovare la norma. Ecco, mi sembra che sia un po' un difetto dei nostri tempi. Io credo che le punizioni debbano essere correlate a quelle che sono le marachelle, chiamiamole così, o proprio gli atti di vera e propria disobbedienza fatta da ragazzi. Quindi sicuramente i genitori sanno che cosa fare, però non vorrei che si inasprisse veramente l'idea della punizione forte, perché anche i ragazzi poi sono così, capito? Questo un pochino mi preoccupa come terapeuta anche degli adolescenti. Si devono provare sempre emozioni forti, come se la quotidianità non fosse di per sé un'esperienza forte. C'è un messaggio che dice: e chi punisce i genitori che sbagliano le punizioni, Alberto? Questo è vero, rimane probabilmente una delle fragilità di molti genitori di oggi, che hanno avuto punizioni forse troppo forti o che li hanno fatti troppo soffrire. Ma rimanderei un po' in conclusione un'immagine ai nostri genitori all'ascolto, che è, abbiamo Stefania da Cremona. Molto abbiamo 30 secondi, Stefania da Cremona, buongiorno. Buongiorno, io sarò velocissima. Buonissima. Allora, ho una figlia di 10 anni, adottiva all'età di 6 anni, e con la quale abbiamo cercato di costruire un nucleo familiare di grande serenità. E Stefania, venga al problema. Perché... Il problema è stato che proprio ieri ho scoperto che la bambina che il venerdì pomeriggio svacca a catechismo da sola, abito in un piccolo paesino, non si recava a catechismo da ben 4 settimane, quindi per 4 venerdì non è andata, ma si faceva venire a prendere da un'amichetta e con la quale invece andavano a fare un giretto nel paese. E la bambina ha ammesso che non è stata una sua intenzione, ma è stata un po' traviata da quest'altra amica. Si scarica sempre un po', Stefania. Ha scaricato un po'. L'abbiamo e poi fatto anche noi. Solo successivamente, lei mi ha detto che non riusciva a dirmelo perché ormai era diventato talmente tanto tempo che non sapeva come fare. Come uscire da questo? Allora, Stefania ci dà lo spunto per lanciare il prossimo tema. Abbiamo visto che il tema bugie a tutte le età, anche nei grandi, è un grande problema. Interessa molto i nostri ascoltatori. Mi lascerei qui, Alberto. Sì, probabilmente non lo faremo sabato prossimo perché abbiamo già scritturato la puntata, ma fra 2 settimane magari partiremo proprio dal caso di Stefania. Dottoressa Trinci, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi e buon fine settimana. Grazie. Alberto, noi ci vediamo il prossimo sabato. Buona giornata da Nicoletta Carbone. Ed Alberto Pellai.